giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Accordo sulla Varsila, convocata per oggi l'assemblea dei lavoratori dopo la decisione dell'azienda di non licenziare nessuno fino al prossimo settembre. Trasporto pubblico, confermato lo sciopero di domani e quello del 13 dicembre. Ieri l'incontro tra il presidente della regione e i sindacati, decisa l'apertura di un tavolo di confronto. Il Friuli Venezia Giulia, maglia nera per la prevenzione contro il coronavirus. Qui arriverà da oggi il numero più alto di multe in rapporto alla popolazione per gli ultracinquantenni non vaccinati. Oggi avviene la firma di un accordo che renderà più competitivo il porto di Trieste, il primo corridoio doganale europeo che ridurrà i controlli e accorcerà i tempi di viaggio delle merci. Una base per i Canadair, muretti antiscintille lungo i binari, li ha chiesti la regione al tavolo nazionale sulla prevenzione degli incendi che la scorsa estate hanno distrutto 9 milioni di metri quadri di boschi. Oggi a Udine il confronto sul progetto di Siot per l'installazione di cogeneratori a metano nelle stazioni di pompaggio, annunciata la protesta contro il piano del movimento Friday for Future. Oggi è la giornata mondiale per la lotta all'AIDS che colpisce ancora e se ne parla poco. Nel pomeriggio un incontro farà il punto sulle nuove infezioni a Trieste. Seguiranno altre iniziative. Quasi 1 milione di euro per l'adeguamento della biblioteca statale isontina per manutenzione e prevenzione antincendio. Presentato l'avviso pubblico per i lavori. Riaprono piscine e aree wellness delle Terme di Arta, chiuse da inizio settembre a causa del caro energia, una boccata d'ossigeno anche per il turismo. Calcio, Triestina ultima in classifica dopo la sconfitta di ieri contro il Piacenza, finisce invece 2-2 contro Pro Patria per il Pordenone che mantiene il comando del girone A. Successo ieri in Francia per la pallanuoto Trieste nella gara di andata degli ottavi di finale di Eurocup, ha superato per 20-12 il Noisy-le-Sec, ritorno previsto il 14 dicembre alla Bianchi. Le 7:20, buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Il cielo è nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. Trieste 7,5 gradi, il vento soffia a 57 km orari da est-nord-est, quindi è bora con raffiche che hanno raggiunto gli 89 km orari. Gorizia 8,5 gradi, Udine 7,5, Pordenone 4, Tolmezzo 6, Forni di Sopra 1,5 gradi, Piancavallo 1, Tarvisio 0 gradi, Sappada meno 5 decimi di grado, Monte Zoncolan meno 3,5, Monte Lussari meno 5, Lignano e Grado 8. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: su pianura orientale e costa c'era in prevalenza nuvoloso e soffierà bora moderata con raffiche sostenute, specie verso Trieste. Sulla zona montana cielo in prevalenza coperto, soffierà vento da nord o nord-est moderato in quota. In giornata sarà possibile nevisco al confine con l'Austria a partire da 700 metri circa. Nel fondovalle del Tarvisiano possibili nebbie nella notte. Oggi si riunisce l'assemblea dei lavoratori di Varsila dopo l'accordo firmato l'altra notte. Prevede lo slittamento al 30 settembre dei previsti licenziamenti per dare il tempo a un altro investitore di subentrare nel sito. Da 4 mesi e mezzo il gazebo dei lavoratori Varsila è il simbolo della lotta. Dentro troviamo Marino, un dipendente che nonostante sia vicino alla pensione ha partecipato al presidio con continuità. Dovrebbe essere un obbligo per tutti i dipendenti e venire qui, perché il sito è fondamentale per Trieste ma anche per tutte le famiglie. Il gazebo potrebbe essere presto smantellato dopo l'accordo chiuso nella notte tra aziende e sindacati al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, che sancisce di fatto la tregua e ritorna a una certa normalità dopo il braccio di ferro dei mesi scorsi. Marco Relli, FIOM. La continuità produttiva deve avere ovviamente anche la possibilità di avere gli accessi in entrata e in uscita dello stabilimento, altrimenti diventa difficile poter produrre. L'azienda si impegna a non avviare licenziamenti prima del prossimo settembre, 4 mesi oltre la scadenza concessa in un primo momento. All'occorrenza saranno attivati i contratti di solidarietà, cioè si lavorerà meno tutti a fronte di una riduzione di stipendio. Entro gennaio il piano industriale per i 700 addetti di attività diverse dalla produzione che Varsila manterrà a Trieste. Per il ministro Adolfo Urso si apre un percorso di garanzia a tutela dei lavoratori. Ora, nella ricerca dell'acquirente giusto, i sindacati vorranno dire la loro. Alessandro Gavagnin della FIM. Quello che sicuramente dovremmo decidere insieme al Ministero, insieme alla Regione, è il percorso che darà più garanzie nel minor tempo possibile per quanto riguarda la reindustrializzazione. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri c'è stato un incontro tra il presidente della regione Massimiliano Fedriga e i sindacati dei trasporti, i sindacati che hanno confermato gli scioperi annunciati a partire da quello di domani. Ne abbiamo parlato con Patrizia Zambon della UIL Trasporti. Gli scioperi inizieranno con il trasporto pubblico su gomma nelle prime giornate di dicembre, quindi il 2 dicembre, per poi passare al trasporto pubblico su ferro, quindi direzione Passe Business regionale Friuli Venezia Giulia, il 13 dicembre per il settore officina e equipaggi, quindi macchinisti e capitreno. Le richieste delle organizzazioni sindacali sono in primo luogo la sicurezza, dovuta anche alle varie aggressioni verbali e fisiche che subiscono autisti di autobus e capitreno per quello che riguarda Trenitalia. L'organizzazione del lavoro per quello che riguarda le biglietterie di Trenitalia e non da ultimo l'utilizzo smisurato degli straordinari. Che cosa vi aspettate dalla regione? Noi dalla regione ci aspettiamo fondamentalmente un contributo valido e un'apertura di un tavolo di confronto a tre, quindi regione, aziende TPL e organizzazioni sindacali, per trovare una soluzione, anche perché come organizzazioni sindacali siamo stati, diciamo, molto attenti e ci stiamo oltretutto preoccupando di quello che potrebbero essere i problemi che vivrebbero o che stanno vivendo oltretutto i pendolari con le corse degli autobus cancellati e soprattutto questo, diciamo, assordante silenzio da parte delle imprese di trasporto pubblico locale. Quindi noi vorremmo un confronto per evitare ulteriori o quantomeno che questa situazione degenerasse. Il tavolo ci sarà? Assolutamente sì, il presidente Fedriga è stato il primo ad impegnarsi nell'attivare nel più breve tempo possibile dei tavoli di confronto. Oggi a Vienna la firma dell'accordo che renderà il porto di Trieste ancora più competitivo. Da gennaio sarà attivo il corridoio doganale internazionale europeo di collegamento tra lo scalo Giuliano e l'interporto di Fürnitz in Carinzia. Consentirà il carico diretto dalla nave al treno cargo senza controlli doganali che verranno effettuati all'arrivo in Austria. Un vantaggio significativo per la merce che viaggerà più velocemente grazie al minor numero di procedure amministrative e anche per il porto Giuliano, che in questo modo potrà garantire una maggiore puntualità. Sentiamo Zeno D'Agostino, il presidente del porto di Trieste. Il tema fondamentale quando parliamo di questa innovazione non è legato solamente al tempo, forse solo quello, diciamo, forse non sarebbe così necessario procedere a un corridoio doganale. Il tema, per esempio, è quello delle garanzie finanziarie. Un bene che viene trasferito in regime doganale e quindi rimane allo stato estero da porto di Trieste a Fürnitz prevede documentazioni aggiuntive, ma soprattutto prevede anche una garanzia che la dogana chiede al soggetto che è lo spedizioniere, che è responsabile del trasporto. Quindi da questo punto di vista non c'è bisogno di portare delle garanzie, perché è il corridoio stesso che è garantito e quindi le merci che poi ci passano e che sono però completamente monitorate da un sistema tecnologico che andiamo implementando e che quindi ci rende unici, ecco, a questo punto sono queste le sufficienti garanzie che danno alla dogana la possibilità di movimentare merci con minori costi, chiaramente essendo la documentazione automatizzata anche con minori tempi, però sono molte, ecco, le questioni che si sommano e i vantaggi. Meno controlli significa meno posti di lavoro? No, se si pensa che mantenendo, diciamo, non innovative le attività si conquistano posti di lavoro, significa che poi nel confronto di mercato poi arriverà quelle innovazioni e quindi a quel punto perderemo ben più posti di lavoro. Meglio essere efficienti, aumentare i flussi di traffico e quindi creare nuovi posti di lavoro che vanno a gestire questi flussi, piuttosto che pensare che siano i controlli che vanno a generare questi posti di lavoro. Friuli Venezia Giulia, maglia nera d'Italia per il più alto numero di multe ai non vaccinati contro il Covid. A scriverlo, in base a dati che non vengono diffusi in dettaglio, sono l'agenzia di notizie ANSA e il quotidiano nazionale Sole 24 Ore. La sanzione ammonta a 100 euro ed è destinata agli ultra cinquantenni e, a prescindere dall'età, anche al personale sanitario, socioassistenziale, scolastico e sicurezza. Le prime multe dovrebbero arrivare a partire da oggi. Del milione di cartelle esattoriali che il Sole 24 Ore stima verranno spedite al Friuli Venezia Giulia, contribuisce con 120.000. Quest'estate in Friuli Venezia Giulia sono andati in fumo quasi 9 milioni di metri quadrati di boschi. Gli elicotteri disponibili sono 3. Ieri la Regione ha partecipato ad un tavolo nazionale sulla prevenzione incendi per chiedere una base aerea per il Canadair e di costruire muretti lungo il tracciato ferroviario tra Monfalcone e Trieste che intercettino le scintille provocate dai freni. Sempre più incendi nelle estati a nord-est è il dato che emerge dal tavolo regionale sulla prevenzione dei roghi boschivi, presenti il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, la Protezione Civile Regionale e i Vigili del Fuoco. Gli incendi, che fino a qualche decennio fa alle nostre latitudini erano tipici soprattutto dei mesi più freddi e secchi dell'anno, tra dicembre e febbraio, stanno invece diventando più frequenti nei mesi estivi, proprio come da sempre capita in Sud Italia, colpa del cambiamento climatico, con estati via via più siccitose e caratterizzate da frequenti ondate di calore che purtroppo ormai si fatica a definire eccezionali. Le fiamme la scorsa estate hanno raso al suolo 8.955.000 metri quadrati di superficie boschiva, mai così tanti a memoria d'uomo, e per prevenirle occorre giocare d'anticipo. Per questo la Regione ha chiesto al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e ai ministeri competenti, interni, ambiente, infrastrutture e difesa, l'adozione di una serie di misure, tra cui il ripensamento della logistica della flotta aerea di Canadair. Proprio perché non è più solo il meridione a essere flagellato dai roghi estivi, occorre che parte dei mezzi per la lotta aerea antincendio sia dislocata in zone a noi più prossime. Sul tavolo c'è l'ipotesi di una base a Ronchi dei Legionari, evitando così che per il cambio equipaggio gli aeromobili debbano rientrare a Roma o a Genova, perdendo ore preziose di lotta contro le fiamme. Tra le altre richieste ci sono anche il potenziamento delle cosiddette strade di penetrazione, vale a dire le vie d'accesso per portare soccorso ai territori colpiti dal fuoco, e la realizzazione di muretti lungo tutto il tracciato della ferrovia tra Monfalcone e Trieste, evitando che le scintille, scaturite dallo sfregamento delle ruote dei treni sui binari, possano essere fonte di nuovi incendi. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Molta paura ieri al deposito carburanti di Visco per l'esplosione in un luogo ad altissimo rischio incendi. Fortunatamente il serbatoio esploso conteneva solo piccole quantità di petrolio e così il bilancio è di 2 feriti lievi. Esplosione al deposito carburanti di Visco di un serbatoio di acque reflue, 2 i feriti. L'allarme è scattato immediatamente con una chiamata al numero unico di emergenza che riferiva dell'esplosione di una cisterna al deposito a Visco, in un impianto di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi, in cui potevano essere rimasti coinvolti 5 lavoratori. Sul posto sono stati inviati dalla Sories l'elicottero e l'ambulanza, intervenuti i vigili del fuoco di Udine, Gorizia e Cividale, i carabinieri, gli agenti della polizia locale, i tecnici dell'ARPA e dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Fortunatamente il serbatoio si è poi scoperto contenere acque reflue con tracce o piccole quantità di idrocarburi. 2 persone coinvolte nell'esplosione hanno riportato traumi, giudicati tuttavia non preoccupanti. Flavio Pozzetto, funzionario Vigili del Fuoco di Udine. Degli operai che erano addetti a un lavoro di manutenzione e installazione di un impianto idrico per assistere a un serbatoio che doveva essere riconvertito, facendo una saldatura hanno creato un'esplosione, però all'interno del serbatoio non c'era combustibile, ma acque reflue raccolte dal piazzale. Intanto abbiamo risolto il problema, l'incendio è estinto, stiamo riempiendo di schiumogeno il serbatoio. I sistemi di sicurezza hanno funzionato, il sistema interno di protezione ha funzionato, per cui insomma è andata bene. Non ci sono conseguenze per la comunità, ha detto il sindaco di Visco. Sono già intervenuti sul posto tutti gli enti preposti che stanno monitorando la situazione prevedendo a quanto necessario. Visco, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale all'ambiente Scocimarro ha convocato un incontro con l'Agenzia regionale per l'energia, la SIOT, Società Oleodotto Transalpino, oltre a comitati e comuni di San Dorligo della Valle, Reana del Royale, Cavazzo, Carnico e Paluzza, sul progetto di installazione di cogeneratori a metano nelle stazioni di pompaggio aziendali. Il progetto ha già ottenuto un finanziamento regionale di oltre 4 milioni di euro. L'appuntamento è a Udine, nella sede della regione in via Sabadin, alle 10.30. In occasione del tavolo istituzionale di confronto sui progetti SIOT, il Movimento Internazionale di Protesta per la Giustizia Climatica, Fridays for Future, ha organizzato un presidio antistante il Palazzo della Regione a Udine per ribadire la ferma opposizione a opere che il movimento considera inutili, dannose, inquinanti e speculatorie come gli investimenti sul gas fossile. Hanno aderito all'iniziativa il Comitato Difesa dell'Alto But, il Comitato Tutela delle Acque del Bacino Montano del Tagliamento, il Comitato Pro Lago Trecomuni e l'associazione ambientalista Lega Ambiente Carnia. In occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS, il Dipartimento delle Dipendenze di Asugi ha organizzato un ciclo di incontri per affrontare i molteplici aspetti dell'infezione dell'HIV e di altre infezioni a trasmissione sessuale. Oggi in programma l'incontro dedicato a fare il punto sulle nuove infezioni previsto a Trieste nella Sala Veruda di Piazza Piccola alle 17. A Gorizia poi in programma un incontro analogo che si terrà al centro diurno del Parco Basaglia alle 10.30. Gli incontri sono organizzati per diffondere la cultura della prevenzione, perché la maggior parte dei casi emerge in fase tardiva, quando è più difficile curare la patologia. A Roberta Balestra, direttrice dell'area dipartimentale di Asugi, abbiamo chiesto quanto è diffusa ora la malattia in regione. Sentiamo. Bisogna distinguere le segnalazioni di malattia, quindi quelle di AIDS, che sono sempre meno, da quelle che sono le notifiche di sieropositività, che non è ancora malattia. Anche queste notifiche sono in lieve decremento, però quello che appare importante è che la fascia più toccata di popolazione sono comunque gli uomini, quindi una fascia che per tre quarti, quasi l'80% sono maschi. L'età media è intorno ai 40 anni, ma anche giovani dai 25 ai 29 anni rappresentano una popolazione toccata, e per questo è molto importante riferirsi e fare prevenzione, informazione, testing ai ragazzi e alle ragazze. C'è una trasmissione sessuale prevalente, se non quasi esclusiva. Gli eterosessuali sono la grande maggioranza delle persone, diciamo, che poi vengono accolte, diciamo, dai centri di riferimento, e poi c'è anche un comportamento omosessuale che è a rischio. Però diciamo che mentre una volta si parlava di categoria a rischio e quindi erano tipicamente i tossicodipendenti, gli omosessuali, adesso diciamo che i tossicodipendenti, quindi chi usa sostanze stupefacenti, rappresenta il 4% dei casi totali. La Biblioteca Statale Esontina di Gorizia presenta l'avviso pubblico per i lavori di manutenzione e adeguamento alla normativa di prevenzione antincendi. Lo stanziamento sfiora il 1 milione di euro e la direzione assicura che le interruzioni dei servizi di consultazione e prestito verranno limitate al minimo indispensabile. Reimmaginare una nuova competitività è il tema dell'incontro nel programma dell'azienda digitale Modello organizzato dall'EFI, il centro di formazione per le competenze innovative della zona industriale Ponto Rosso di Pordenone. Nell'incontro il punto sulla situazione attuale, da più angolazioni sociale, geopolitica, economica, tecnologica e di sostenibilità. Tra i relatori il dirigente Centro Studi Confindustria Alessandro Fontana e Claudio Icardi, colonnello dell'Aeronautica Militare. L'appuntamento è a San Vito al Tagliamento, nella sede LEF di Viale Comuni, anche online alle 10.30. Riaprono da oggi piscine e area wellness delle Terme di Arta, chiuse da inizio settembre a causa del caro energia. Verranno quindi riaperte saune, bagno turco, percorsi emozionali e piscine con la relativa offerta di corsi. In programma anche la riapertura di tutti i corsi e le attività legate all'acqua, come l'acquaticità in gravidanza, l'acqua baby per i neonati e i neogenitori, l'acqua gym e i corsi benessere in acqua. Per tutto il mese di dicembre, inoltre, le cure termali con fanghi e inalazioni saranno disponibili anche di pomeriggio. Nei prossimi mesi verrà completata la realizzazione della nuova piscina. Il consorzio turistico di Arta Terme sta infine progettando proposte di escursioni, attività extra sci per aprire la via a fruizioni più sostenibili della montagna. Si è riunito ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza per individuare le misure di sicurezza per gli eventi che interesseranno la città di Pordenone in vista del prossimo Natale. Per gli eventi dal forte richiamo di persone, come i concerti e i festeggiamenti di fine anno, l'impianto di sicurezza sarà rinforzato, prevedendo varchi distinti di accesso e uscita del pubblico collocati a distanza adeguata dall'area della manifestazione. Questi varchi andranno poi presidiati e controllati da personale posto a disposizione dall'ente organizzatore con il supporto della polizia locale. Previste anche ordinanze antivetro, provvedimenti del sindaco per vietare l'introduzione e la somministrazione nei luoghi dell'evento di bevande in contenitori di vetro, in lattina o bombolette spray. Il sindaco di Pordenone Ciriani ha fatto sapere di avere predisposto una bozza di ordinanza in tal senso. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio di Serie C. La Triestina ha toccato il fondo della classifica. Ieri a Piacenza è arrivata la settima sconfitta in 9 partite sotto la gestione Pavanel. Nella nebbia dello stadio Garilli la Triestina perde definitivamente la bussola. Il 2-0 per il Piacenza, che la relega all'ultimo posto in classifica, matura nel secondo tempo dopo una prima frazione segnata dalla paura di due squadre sull'orlo del baratro. Per la Triestina, Felici, Ganz e Gori tentano di fare gioco, ma guadagnano al massimo calci d'angolo. Al nulla della prima frazione segue il risveglio della seconda, ma solo del Piacenza. Inizia Gonzi, che in area spara alto da ottima posizione, poi al quarto d'ora è Morra a sprecare di testa un'ottima occasione creata da Rizza. E saranno proprio loro i giustizieri della Triestina, che non reagisce. Il primo gol arriva al 18esimo. Stavolta Morra non sbaglia di testa su cross dalla destra di Munari. Il mister alabardato Pavanel prova a scuotere la squadra con i cambi, ma non c'è risposta. Gonzi in area piccola, porta vuota, spara alto al volo e poi, ad agevolare la vittoria piacentina, ci pensa l'espulso Felici al 90esimo. Nel recupero arriva il raddoppio. Rizza segna dopo una corsa di 40 metri. Per la Triestina è notte fonda. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. È finita invece con un pareggio 2-2 la sfida casalinga del Pordenone contro la Pro Patria di Busto Arsizio. La squadra friulana è ora a 32 punti e mantiene il comando della classifica del girone A. Due volte in vantaggio e due volte ripreso. Al Pordenone non basta la doppietta di Aieti per domare la Pro Patria al Teghil di Lignano. I neroverdi, reduci da un altro pareggio in trasferta con la Pro Sesto, non colgono dunque l'opportunità di rafforzare il primato in classifica nel girone A di Lega Pro. La prima occasione è per i Ramarri. Al sesto un cross di Pinato è deviato da Saporetti, che rischia l'autogol con il pallone che sbatte sul palo. Al 23esimo combinazione in area del tandem d'attacco neroverde. Candellone controlla e appoggio per Dubicas, il cui destro è preda agile di Del Favero. 4 minuti dopo si fanno vivi gli ospiti. Vaghi tenta la conclusione, ma Festa blocca. Al 32esimo il Pordenone va vicino al gol. Sinistro di Pinato deviato in angolo da Del Favero. A 5 minuti dall'intervallo Dubicas si libera per il tiro in area, ma il suo sinistro finisce a lato. I neroverdi rientrano carichi dagli spogliatoi. Al terzo della ripresa Zammarini coglie il palo e 2 minuti più tardi Aieti, al terzo gol stagionale, colpisce da posizione ravvicinata su un cross dalla destra di Brusca Gin. Il pareggio della Pro Patria arriva al 14esimo. La disattenzione di Pirrello permette a Castelli di liberarsi e portare bianco-blu di Busto Arsizio sull'1-1. Poco più tardi Pitucci prova dalla distanza, ma Festa intercetta, mentre al 20esimo Candellone spara alto dal limite. Il Pordenone torna in vantaggio al 39esimo, di nuovo con Aieti, che insacca da pochi passi. Agli ospiti però bastano 2 minuti per impattare con un contropiede del neoentrato Stanzani, che si libera in velocità proprio di Aieti. Finisce 2-2 al Teghil. Il Pordenone resta primo con 31 punti davanti al terzetto composto da Renate, Feralpi Salò e Lecco. Prossimo impegno domenica alle 14.30 in casa della Provercelli. Daniele Letti, GTGR Friuli Venezia Giulia. La Pallanuoto Trieste ha ottenuto un netto successo esterno ieri in Francia nella gara di andata degli ottavi di finale di Eurocup, superando per 20-12 il Noisy-le-Sec, con un +8 che rappresenta un margine più che discreto in vista del ritorno previsto il 14 dicembre alla Bruno Bianchi. Dopo aver sofferto in avvio, i triestini sono riusciti a imporre la propria qualità, tutti a loro favore parziali, con il grosso del distacco maturato nella seconda e nella terza frazione, entrambe chiuse sul 5-2. Inaba, miglior marcatore con 4 reti per i giuliani che ora devono tornare a pensare al campionato di A1. Sabato pomeriggio gli alabardati giocheranno nella piscina del Posillipo. Alle 7.43 cominciamo la rassegna stampa dal Piccolo di Trieste. La grande fotonotizia è per lo sciopero del trasporto pubblico di domani sotto l'accordo per Varzi. La intesa raggiunta a Roma dopo ore di trattative. Riparte la produzione a Bagnoli. Attività garantita fino al 30 settembre. A breve lo sblocco dei motori. In prima anche una notizia dai Balcani, sempre seguiti con attenzione dal quotidiano. Smog a livelli record in Serbia, i giudici tagliano le emissioni. Sotto, Gabrovec dice no al trasferimento di Alejandro Meran alla REMS in Carso. Meran è l'uomo, lo ricordiamo, che ha ucciso due poliziotti nella questura di Trieste, che, giudicato incapace di intendere e di volere, dovrebbe stare proprio in una REMS e non in carcere, dove si trova adesso. E ancora i test di corsa degli aspiranti vigili urbani giudicati da esperti della federazione. Un'altra foto in prima è dedicata alla Triestina, ultima in classifica, e degli ultimi, quelli veri, parla invece Don Vatta in una intervista. Il titolo del richiamo in prima è Don Vatta e Trieste, migranti e barboni, vite disumane. Dal Piccolo di Gorizia, la fotonotizia è per l'arrivo in tribunale di nuovi magistrati, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, sotto idrogeno per gli ecobus. Ancora in prima, Biblioteca Isontina, 285.000 euro per l'impianto antincendio. Sotto Ronchi Aeroporto c'è il progetto per il varco riservato alle bici. Il posizionamento del Friuli Venezia Giulia tra le peggiori regioni in Italia per numero di over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid è l'apertura del Messaggero Veneto. In fotonotizia si passa alla questione del limite dei 60 euro come soglia per il pagamento elettronico obbligatorio approvato nella legge finanziaria, che attira il favore degli esercenti ma non quello dei consumatori. Altro tema, le reazioni alla proposta del senatore Roberto Menia, triestino ma eletto in Liguria, di dichiarare l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica. Reazioni tra cui il parere avverso del presidente della Società Filologica Friulana, Federico Vicario. C'è poi un titolo sul conferimento odierno a Roma del riconoscimento Eccellenze Italiane all'udinese Carla Garlatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. L'edizione di Udine del Messaggero in fotonotizia si occupa dell'esplosione della cisterna di Visco e per la politica presenta i risultati del sondaggio dell'istituto XE sui candidati sindaco del centro-sinistra, che ora vedono Alberto Felice De Toni avvantaggiato su Alessandro Venanzi. L'edizione di Pordenone in fotonotizia parla di occasione sprecata per i ramarri di Di Carlo, mentre per la cronaca informa sul perdurare del rischio di una scalata da parte di un soggetto privato in ATAP, la società del trasporto pubblico locale. L'apertura dell'inserto che il Gazzettino dedica al Friuli e di quello di Pordenone oggi sono uguali. Pontebbana, sicuri solo 2.000 metri. La statale 13 è la più pericolosa della regione. Su 165 chilometri di asfalto, solo in 163 non si è verificato almeno uno schianto. Negli ultimi tre anni, 1.345 incidenti e quasi 30 morti, 1.400 i feriti. La fotonotizia dell'inserto Friuli è dedicata all'Udinese. Udinese, serve un rinforzo per puntellare la difesa, questo è il titolo. A fianco, serbatoio esploso, due operai ustionati e momenti di terrore. I migranti inquinano i boschi della rotta balcanica, a sollevare il problema il WWF sezione Friuli Venezia Giulia. Sotto, ruba farmaci e si barrica in bagno. Dalla prima di Pordenone, caso criptovalute, il Codacons attacca, nessun pagamento. Fotonotizie anche qui per il calcio, Neroverdi, il bis di Aieti non basta per i tre punti. Infine, crisi energetica, matrimoni più costosi nelle stanze del comune. Da Quotidiano Nazionale La Repubblica, l'incontro del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di talenti italiani nel corso della sua visita a Zurigo. Tra le persone anche Paola Picotti, biologa friulana che ha scoperto un biomarcatore per la diagnosi precoce del Parkinson. Ancora qualche notizia prima di chiudere. In occasione del trentennale della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, da oggi e fino a domenica 4 dicembre, l'ingresso alla Galleria Regionale d'Arte Contemporanea di Gradisca di Isonzo sarà gratuito. In allestimento la mostra Dora Bassi, immagini e parole. In chiusura domenica, oltre a un'esperienza immersiva su vita e opere di Luigi Spazzapane. È dedicato alla figura e all'opera dell'architetto Gino Pavan, attivo nella tutela e nel restauro a Trieste, in Istria, in Veneto, in Emilia-Romagna e nel Friuli terremotato, e presidente della Società Storica Triestina. Convegno oggi in programma e oggi e domani a Trieste, alla Biblioteca Statale Stelio Crise, in Largo Papa Giovanni XXIII, dalle 9. La mostra fotografica dal titolo Il mosaico in bianco e nero, che espone 40 scatti d'autore realizzati tra gli anni 20 e gli anni 90 del secolo scorso, sarà inaugurata a Trieste al Civico Museo Sartorio alle 11. Lo psichiatra Mario Colucci e il filosofo Pieraldo Rovatti presenzieranno alla presentazione della Scuola di Filosofia di Trieste, che si terrà in occasione del decimo anno di attività dell'istituto. Alla Trieste, l'antico caffè San Marco, alle 18. Il mondo in camera è il documentario che ripercorre l'incredibile storia di Mario Fantin, fotografo ed esploratore di ascendenza friulana, noto per aver documentato la storica conquista italiana del K2 nel 1954. Sarà proiettato a Pordenone, a Cinema Zero, alle 21, alla presenza del regista Mauro Bartoli. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Vue o Fevelin D. Alle 11.19 circa l'appuntamento con Anziani, anzi no. Alle 11.55 andrà in onda Né Stato né Mercato. Seguirà l'edizione meridiana del giornale radio alle 12.30. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia, per la parte tecnica, Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.